dimane, ma vorria partir stasera. Lontano no, non c'è resisto più. Dice che c'è rimasto sul mare, che è sempre lo stesso che il mare blu. Monastere Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché, perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'è. Fontanelle Capemonte, chi sto cuore mi si schianta quando sento di da gente che si è fatta malamente sto paese, ma perché? No, non ne ho vera, no, non ci credo, e moro con sta smania torna a Napoli, ma che già fa? Mi fa paura e c'è tornare. Paura se fosse tutto vero, se la gente avesse detto la verità, tutta ricchezza in Napoli era un cuore, dice che è perso pure chi l'ha. Monastere Santa Chiara, chiuso dinta a quattro mura, quante femmine sincere si perdevano all'amore, se sposavano a Gesù. Fontanelle Capemonte, mo si perde in amante, già ne tene nate cento, cara femmina innocente, dice a gente, non c'è più. No, non ne ho vera, no, non c'è crede, e moro con sta smania torna a Napoli, ma che già fa? Mi fa paura e c'è tornare. Monastere Santa Chiara, tengo un cuore scuro scuro, ma perché, perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era.